siamo un raggio della divinità, noi siamo un mistero. Non vi siete mai accorti che anche noi nella vita abbiamo avuto dei momenti in cui non ci siamo capiti? Io non riuscivo a capirmi, tu, voi, noi. Non ci si capiva. Dicevo, ma che razza di individuo sono? Risposta, un mistero. Chi sono i misteri? Sono quelle realtà, quei fatti che ci superano. Pensate che ciascuno di noi supera se stesso. Il mistero di me supera me stesso. Tu, chiunque tu sia, che tu abbia tanta salute o poca, tanta cultura o zero, tu uomo sei un mistero. Qualunque sia il tuo nome, la tua professione, il tuo mestiere. E abbiamo avuto dei momenti in cui ci siamo accorti che dentro di noi c'è un mistero. A volte io ho sentito la moglie dire, ma credevo di averlo conosciuto, il mio uomo, prima ancora di sposarlo, ma a volte mi pare proprio che sia un mistero. Signora, mi stupisco che solo adesso l'abbia capito. Ma anche qualche uomo a dirmi, oh padre, ma che mistero quella mia moglie, Ma siamo un mistero ciascuno di noi. E chi dicesse, ma io conosco fino ai particolari quel soggetto, quel mio figliolo, quella mia figliola. Non dirlo due volte, perché ognuno di noi è un mistero. Perciò ognuno di noi sfugge alle indagini più sofisticate della scienza. E ho parlato più volte col professor Cherubino Trabucchi, perché mi aiutasse anche a educare i miei giovani, qualche buon consiglio, qualche buon suggerimento, perché la salute psichica è molto importante. E diceva, padre, ci avviciniamo il più possibile a queste persone ammalate, così, ci avviciniamo il più possibile, con apparecchi, con lo studio, la cultura, però nessuno psichiatra può dire di conoscere i suoi pazienti sino in fondo. C'è sempre qualche cosa che sfugge alle indagini più accurate, sofisticate, analisi su analisi, sfugge perché siamo stati fatti da Dio, che è il mistero dei misteri. E siamo la specchiatura di Dio, carta d'identità. Di Dio ciascuno di noi è un mistero, perché il suo autore è un mistero. La firma d'autore in noi non l'ha fatta il papà, la mamma, hanno obbedito ad un altro autore. Questo è Dio. E chi può comprendere, misurare Dio, sondare Dio, gettare la sonda e misurare quanto è profonda l'intelligenza, il genio di Dio? Nessuno. Siamo davvero un mistero. E ci siamo accorti. Un mistero la moglie, il marito. Un mistero quel figlio, quella figlia. Un mistero quell'amico. Credevo fossi in gamba. Credevo di potermi fidare. Oh, che delusione. Che mistero. Che mistero, sì. Ed è molto bello che sia così. Siamo davvero il mistero di Dio. Di Dio. Ma, padre, qui c'è dell'esagerazione. Domandiamo a lui. Sono parole sue. Qualunque cosa voi farete agli uomini più bassi, più poveri, più miserabili, più malati, più cattivi, è come fatta a me. Mio Dio. Ma chi è che parla così? Lui. Cielo e terra passeranno, disse con quelle labbra, ma le mie parole non passeranno. Qualunque cosa voi farete, all'ultimo uomo emarginato, rifiutato, rigettato, calpestato, è come fatto a me. Ma Gesù di Nazareth, che dici? Allora, il mistero dell'uomo è mistero di Dio? Sì. La nostra vita è mistero di Dio. Ogni attimo. Mio Dio, ti amo, ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano, conservato in questo giorno o conservato in questa notte. Sì. Che mistero è Dio? Perché dici così? Ogni uomo è un mistero. E se è mistero Dio, siamo mistero noi, vuol dire che tra noi e Dio c'è un rapporto misterioso, intimo e vitale. Intimo vuol dire che è il più profondo e vitale vuol dire che coinvolge la vita. Intimo e vitale. Qualora noi riuscissimo a fare questa scoperta, da quel giorno in avanti sarebbe sempre festa sulla terra. Nella stagione bella e in quella brutta. Sentiremmo che Dio che ha disposto dentro di noi tutto questo dramma della vita, un dramma che avrà un tempo, due tempi, tre tempi, sì, la fanciullezza, l'adolescenza, la giovinezza, l'età adulta, l'età matura, la vecchiaia, sì, è un dramma di cui lui è autore. Assieme a noi, lui con noi, noi con lui.